Sì, Gianni. Come è stato fatto? Ma dai, Marco, come tu ti intendi? Se il fatto te li dà tutti, e come se te li dà? Perché a me mi li dà, allora non è la questione di capo. Se tu mi dici che ricezione magari ha qualche di più o meno, ma... Comunque io, guarda, ce l'ho quasi 11 anni questo qua, e grazie a Dio mi sentono tutti... non dico benissimo, ma diciamo che mi faccio sentire. Lo so già, però io, siccome si era creata una situazione strana sul terrazzo, ho dovuto, cambio la marcia un attimo, ho dovuto fare i giri tra il cavo e avevo 50 di cavo su di me. Era troppo veramente. Vabbè. Oh, vabbè. 50 sono un bel, per le 50 sono un bel 50, hai ragione tu. 25 è tanto quanto, ma 50 sono troppo. Riprendete un attimo che sono un po'. Ok, ripreso ancora io. In effetti hai ragione già, se ci vogliono 50 metri di cavo, 2,50 mi serve che cosa? Quello buono. Hai ragione, la cifra che ha detto. Cosa più dell'antenna, hai ragione. Avanti Claudio, in direttiva, io esce il Matteo, saputi dimmi, canta. Buona serata e buona continuazione. Avanti Claudio. Sì, ciao Marco. sempre bene la radio. Brutta, cosa vuol dire? Brutta, brava. È comprensibile, però non è una bella radio, tutta compresa, tutta impazzata, non è bella. Il segnale va da 3 a 7 a 5 a 6, non è facile, però va bene, quello divertito. E la radio non è piace, brava. Un po' prova a prendere il processore, a passare, però è qualcosa. No, questo è il processore. Ciao, come si dice? Domenico, ciao, buonasera, ben sentito. Adesso meglio va? Adesso ho migliorato un pochino. Cosa? Ho migliorato un po'. E vabbè, tu me lo devi dire se devo... Il segnale, no, qua. sto usando l'antenna per i 40 metri e sono i 27, è chiaro che non c'è radiazione di niente, né di segnale né di modulazione. Ogni antenna aveva promessa per le sue bande, io stavo usando la direttiva dei 40 metri e 27, tra l'altro ho puntato in Nord America. Adesso ho messo la sua antenna, ecco qui, la radio è questa, è l'850. Bene, perfetto, lui lo testa molto bene, lo testa molto bene, te l'avevo detto io. Vabbè, se tu non ascolti bene, può essere che dipende anche da te. Non so, io so che e per me va bene così. Non stiamo parlando di una radio come 440 e come 140. Questo è l'850, è una M, non è che puoi ascoltare la perfezione. Questo è un digitale, vediamo un pochino in cuffie cosa dice. Cambiando il rotto, eccolo qua. Allora aspetta, rimettiamo un attimino l'attenuatore, ma ci vediamo. Allora così non c'è il processore, così c'è il processore, possiamo aumentare ancora, ed è brutta, e la dobbiamo abbassare, la dobbiamo metterla così, guarda. Ecco qua. Dobbiamo metterla così, va bene? Due secondi fa mi ha detto che quella radio non c'ha processore, che la direttiva che non c'ha processore, va a fare il processore. Cioè, fammela ascoltare di nuovo, Allora, questa radio c'ha il processore in banda laterale, lo pigio e non serve a niente. Per aumentare la modulazione c'è un altro tipo di sistema, che è questo, Broadcast. Eccolo qua, così è disinserito e quindi hai una modulazione normale senza nessun problema, che nessuno ti possa dire niente, proprio come la vera parola, eccetera. Così invece lo inserisci e le dà una leggera cosa, ecco, tutto qua, va bene? Sì, allora, per i minuti è pronta senza nessuna... la preferita senza processore, per c'è anche Franco che dirà la sua, io il momento è questo, secondo me senza processore la radio è molto più bella per me. Bravo Claudio, dimmi. Ho detto prova. Allora così è senza processore, però devo tirare su, ecco qua, devo tirare su leggermente il coso, il mic gain. Adesso a 2, a 4, lo mettiamo a 6, eccolo qua. Lo mettiamo così e non se ne vuole da più. Va bene? Io ti ascolto bene qua. Segnale 9.30, radio 5 perfetta e pulita. Poi non lo so, ma sicuri tu come l'ascolti. Io lo sento bene. No, allora, attenzione, non mischiamo la lana della seta fra. Lui ha detto, ha fatto il passaggio senza il processore e ha aumentato il mic gain. A me mi ha fatto due passaggi, uno con il processore e uno senza il processore. Per me è meglio l'ultimo passaggio che ha fatto con te. Fammi ascoltare col processore inserito a Franco qua. Allora, così è senza il processore e con il mic gain a 4. Così è col processore ed è troppo alta e quindi dobbiamo abbassarla così, eccolo qua. Allora, così è col processore inserito con il mic gain a 2, va bene? Lasciala così, va bene anche così. Che i passaggi si fanno senza toccare niente, tu devi fare passaggio a me e passaggio a lui. Perché se tu con la radio lo lasci il professore inserito e lo metti di mica lì, non è bella. Per me è... Ma lo so che è così, non c'è niente da fare, non è che te lo sto dicendo. Li ho già fatti io gli esperimenti, capito? Gli esperimenti li ho già fatti con questa radio e quindi è così. Mentre invece adesso attenuatore, eccovi, attenuatore, perfetto. Allora così è con il processore inserito e il mic gain ce l'abbiamo a 2,5, ecco qua, più, ecco qui, così a 2,5, va bene? Sì, io ho fatto passato e ti ascolto bene, se lo lascio così, non aumentare di più, e se no butto la radio, così, così può andare bene, va. Va bene, dai, confermo, Cla, ti ascolto bene qua. Ma professore Flaccato, leggi, leggi, proci, proci, deve essere in dentro. Vedo un primo messo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E non gridare, gatto, mi hai fatto sordo. Cosa? Faccio rosso, va bene, dai. Cosa va? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma perché hai toccato il Mickey Gay? Che cazzo va bene le balle? Hai toccato il Mickey Gay? Mettilo a 1, com'era, ti ho detto, appena appena più sotto dell'1. adesso è sempre la mia e basta, no, non mi serve altro. Sì, sì, sì, scusate se non rispondo, ma purtroppo lo so stroncare adesso, riprendo dopo. Va bene, va bene. Ciao Massimiliano, ci sentiamo dopo, dai, stammi bene. Fra, io mi faccio altre due prove, mi sposto un attimino e poi vado a mangiare, dai, ci sentiamo, buona serata a tutti. Anche io vado a cenare, dai, a dopo. Ok, sono tornato tutti anche a quelli che sono in ascolto, quelli di per me momentaneo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. radio col caricatore e tutto, così quando pulisco le moto c'è la musica anche. Anche? Perché bisogna anche per quello, per capello. Tanto si ampia già ce la fa. A te, sono Cristian. Hai tratto un uovo di Sosso, che è l'aceto milanese. Oh, vai gando. Te ho già pranzo. Bene, bene. Va bene. Un sacco di anni a Milano era. C'è l'aceto milanese. Domani che tu fai? Cos'è? Domani che tu non fai? Domani in Cirinia so cosa. Ah, in Cirinia procede tra poco. Sta a mettere che cosa? Sì, sì, fra un po' inizio. Sei quando? Ma che una è già arrivata, può essere o no? No, una no, no, no, ancora no. No, scusa, la gente è pure arrivata, vero? No, neanche. Tu stai dicendo, ehi, la Grimaldi è arrivata. La Grimaldi non è la Genevu, la Grimaldi veloce. No, no, no, no. Genevu è una cosa, Grimaldi è un'altra. Oh, ma e chi viene dai bassi russi? Cazzo, sono quel cazzo. Sì, a Ponente Vivo, vero? Ah, non ricordo dove ha attraccato. È lì comunque, all'Asci. Oh. Ehi, dico lì, dai bassi russi, cazzo, c'è. Cos'è? Dalle parti vostre, c'è caldo? Sì, se vuoi venire, siamo al mare, infatti. No, un carissimo, bro. Ciao, Luca. Ciao, ciao. No, qua c'è caldo, assassin. Caldo, caldo, sta facendo. Dove? Dove si scaccia di te, dico? Sto andando a internet, sì. Sì. Sto guardando se c'era qualche novità. No, stavo costruendo un corso ma non ne ho voglia, ho fatto già tutti i contatti della portante. Un multiplo per i microfoni, no? E niente, domani piano piano, a una alla volta mi trovo le modulazioni. Ehi, ehi, ehi. Però devo mettere un po' distante dal baracchino questo alimentatore, perché si sente. Consigliabile. Tutto sonniglio che laggiù laggiù di 3 metri lontano, perché chissà come tu si stanno da un paolo, cioè così può essere. Ah, ecco, io ce l'ho proprio sopra. No, cazzo sopra, perché deve refreddare l'alimentatore? Oh, libero c'è, libero, ma ce l'ho sopra l'apparato. Come il vitro è così illuminato. Hai visto, l'hai controllata la tensione, credo, vabbè, quella di andare per controllare. Sarà quello lì. No, questo già è, a voglia. L'amperometro mi segna 3 ampere, l'altro saliva fino a 5. Addirittura. Senti, lavoro pure allora. Dove c'era, mi scaldava una mania fenomenale, non riuscivo a metterci la mano su. Luca, attento Luca, monte, sta nevicando dalle tue parti. No, prendeva cazzo nevica, non cadi qui si muori. Giallo, ma sempre sperimentando, Ziga. Sì, ma ho lasciato stare, dai, lo faccio fra un po' fa la volta, domani anche un poco, dai, capito? Respira ogni tanto. E io no, ma lo faccio a tempo perso, capito? Tutto quello che mi chiedo qui mi metto a fare qualche cosa, però oggi sono un po' tutto uno stanco di vista. A preparare no. Asciugamano a lui. E io non ce n'avevo bisogno, visto, perché usa di più a rugatica. E io servo lì allora. Vabbè, ma meno male tu sei impegnato, fai movimento, un preso, è diverso, un preso, ti basta prima. Sì, quello puoi dire forte. Io non ci avrei fatto a fare quello che fai tu, sinceramente. È troppo fermo, no? Sì. Questo è. preoccupare che vengo. Sì. Aumentiamo il VAT, vediamo un po'. Sì, cazzo, sarà anche molto di più lo smitter. Ah. Ricordami, come si chiamava, il nome d'attivo qual era? Mi ha fatto entrare cosa? Dove? No, nel mondo della CB, nel, come, come cosa, come modulatore, dai. Ma no, aspetta un attimo. Tantissimi anni fa, ti sto parlando forse dell'85, no, forse del 90, Abbiamo iniziato con due portatili, io e un amico mio, che modulava anche lui, poi lui non modula più. Poi è entrato Luca, Luca ha continuato, noi abbiamo mollato, ma tanti anni fa, così abbiamo iniziato per gioco con due portatili. 93 era oggi, perché la prima concezione risale al 95. 93 era, 92, 93, dai, quell'anno lì era. Vabbè, comunque, dopo un po' è entrato Luca, Luca ha continuato, noi dopo abbiamo mollato e adesso l'ho ripreso. Affermativo, ma mi stai dicendo tuo padre modulava, quindi? No, negativo, no. Mio padre è entrato un paio di volte a farsi quattro risate, ma non modulava. Si chiama Varota Guarda. Ciao a tutti, oggi? Sì? A posto quindi l'alimentatore? Sì, sì, lo devo mettere un po' lontano però, perché è troppo potente. E mi fa le cuffie e sente sempre... Vabbè, e la radio si illumina? Sì, sì, e ha voglia, per forza. Vabbè, da 6 ampere si è passata a 15 ampere. Vedete, ciao Antonio, buonasera, Gianluca, te già ti ho salutato. Buonasera a te Claudio. Buonasera e ben sentito, dai. Vabbè. È un problema. Un problema serio, non ne tolgo più i cazzi. Ho spostato le antenne. E ho fatto casino. Cioè cosa è successo? Come c'ero io, non me la toccare che fa troppo bene così. Come l'hai vista tu oggi? È tutto così, che è perfetto così. Vabbè. Ho spostato la verticale, questa, perché devo far posto per montare la 5 bande e ho delle righe. In digitale ho delle righe, allucinante. Ma con tutto, anche col baracchino, con qualsiasi radio. Allora per problema al ricevitore, prova a sostituirlo. Quale ricevitore, Gianlu? Ma di un televisore solo ti fa? No, no, non solo a me, a tutto il mio condominio. Ah ecco, tu c'è la centralizzata, dai. No, a me me lo faceva al televisore di su, stranamente, dove siamo su l'altro piano, invece di qua tutti gli altri quattro funzionavano benissimo. Quello di su invece faceva righe, secondo come ne levava anche l'immagine. Che cagata, cazzo, se non ne ho voglia adesso mi di nuovo. Mamma mia, gara. Evidentemente è troppo bassa e troppo vicino alle antenne della centralina. Che palle, ma mi sta passando proprio la voglia. Mi sono già rotto, per non dire... Magari c'è la centralina che è un attimino troppo compatta, se abbassi poco a poco la ricezione non gli crea problemi. E cos'è stato? Mai e poi mai. Ho spostato l'antenna, ormai sono andato addosso alla centralina che c'era sotto in mansarda. Non ce n'è più voglia, basta che sbagli. E ci rimetti tutto il lavoro fatto, spostata, tirantata, messo tutto in ordine, a posto, ecco qua, ho raddutto la cappa, ma vaffanculo. Non devi disturbare niente, lei fu HD e è nuda, non si deve disturbare niente, evidentemente c'è qualche rientro di qualche passaggio di cavo a qualche parte, io ho un mazzo di cavi sopra che non viene bene a dirlo, adesso ci ributto dentro la canala, mi sono rotto le balle. Babbo dai. Vi ascolto, lo riprendo, vedo un po' di studiare qualcosa qua. Ci sentiamo ragazzi, buonanotte a tutti. Con tutti, anche col baracchino, con tutto. Questa è la manta, ma col baracchino 4 watt. troppo sopra i cavi che sono tutti fascettati, i cavi TV e balle varie, sicuramente c'è qualche passaggio di RF da qualche parte. Adesso devo staccare nuovamente tutto, portare su il radiatore in campo e vedere cosa cazzo è successo. Guarda, scusa un attimino, poi riprendo io. La faccio, il filo dell'antenna LCB la faccio passare dentro un coriugato in plastica. Potrebbe fare a isolante, non disturbare. Anche, vai a tu. Guarda che chiedi a Massimiliano, perché da poco ha fatto un impianto, gli ho commissionato un impianto centralizzato antenna e ha portato questo cavo d'antenna, cavo d'antenna inteso come cavo TV, che aveva doppio isolamento con una guaina particolare per cui anti rientro di RF e di queste cose qua. Secondo me piuttosto che stare lì a cambiare tutto l'ambaradano e fare casino con i tuoi cavi d'antenna, ti conviene cambiare, mettere lo schermato, quello dell'antenna centralizzata, capito? Perché è possibile che sia quello che si sta tirando, magari passando vicino ai cavi tuoi sta creando problemi. E poi pure a te, ma me ne sono andato sopra la parabola, capito? Noi abbiamo anche la parabola centralizzata, con un unico cavo in scesa e i partitori appartamento per appartamento. Quindi quasi ho fatto casino io, perché mai mi è successo. Dall'85 che sono qua a oggi non è mai successo niente. Beh, ma disturba anche il mio, quindi non è che posso dire di no. Vabbè. Vedrò domani, dai, se è tempo bello, sabato o domenica, di buttare nuovamente tutto giù e controllare bene cosa è successo. Può darsi che abbia fatto qualche giuntura a culo di scimmia e quindi mi fa qualche rientro, dai. Buonanotte a tutti ragazzi, ci sentiamo, ciao. Ma comunque basta fare i passaggi in garetto. Guarda cosa hai fatto tu andando, fatto, e dopo che passaggi indietro lo trovi subito quello in difetto. Ma te lo fa anche in UEV? No, solo nella 3x9. Quanto vai, ho sbagliato, me ne sono andato solo, sicuramente troppo, siccome è molto bassa l'antenna, non l'ho mai sollevata, perché non mi interessa niente. O le butto su un altro tubo e la lascio lì e la sollevo di altri 3 metri, allora sicuramente supero l'ostacolo che si è creato, oppure la butto giù e la rimetto all'overo. Affermativo, ma stai chiudendo oppure puoi accendere un attimino l'altra frequenza? No, chiudo, non ne ho più voglia, dai. Chiudo e basta. Facciamo un po' le palle girate anche, dai. Ci sentiamo, Anto. Stammi bene, buon proseguo a tutti, vi saluto, passo in corretto. Ricambiato al 100 e ci sentiamo prossimamente. QRX per me un attimino, ciao Cla, ciao ciao. Ciao Anto. Ciao Cla, ciao anche a te. Aspetta già lì, risolvi il problema, ci sentiamo, buonanotte, tutte cose, ciao ciao. Ciao Eugenio, guarda che ho avvisato a Giampaolo, quando vuoi passa, ok? Grazie. Niente, non ti preoccupare, già fatto, ciao ciao. Ciao, grazie Eugenio. Niente, ciao. Ciao. La stessa. Dile a Gianluca come ti si piatta lì in radio o OJ. Che radio? Beh, è una cosa mia di Eugenio, non ti interessa a te, troppo curioso, sì. No, anche io ero sentato a Montonardi. Cosa vuol dire? Io sono disordinato. Il logo, io non sono tutti allineati. E da te quel logo? Io lo so dove sono, io qui non c'è dove sono fatte cose qua. Un cucinino, tanto sarà oggi 4x2. Sì, dai, sì. No, io c'ho una vera e propria stanza mia, proprio abilitata all'uso e la, come si dice, l'uso e la retenzione delle radio. No, beh, quello che hai visto è stato fatto dal falegname, Mastro Giulio Rollaro e OG. Ah, ecco perché il capo era così fatto bene. Beh, questa è una L, è fatta dal falegname, questa è fatta da Mastro Giulio, anche del piano, ancora tutto in olivo, tutto ad hoc, i piedi, Abbiamo una cosa uguale, te l'ho già detta. No, ah, la galleria, questa non c'è, questa, poi è barcollante, cioè, chi ci muovi? Quella è uguale identica alla mia. Questa me l'aveva regalata al mio compleanno Franco California. Franco Bollone. Quella la sto usando adesso, ci sono seduto sopra. Questa me l'ha regalata lui, quella nera, quella blu invece del computer che rimane lì. Questa è un bel comoda, è un bel comoda. Vabbè. Gianluca, buona noi a me venenti. Ma tu non hai idea del casino che ho fatto per spostare quell'antenna? Mi ho fatto vedere gli altri due tubi che ho qua nella stanza a Eugenio. Allora, quasi quasi uno di questi tubi che mi servono per montare l'antenna, l'altra antenna devo utilizzare per sollevare questa. Ma va a far culo, che... Vabbè, se un cosa di un tubo pazienza, si ritrova un altro tubo, si prende. L'importante è che risolvi il problema. L'importante è quello lì, da voi mai si veglia. Ho una fatica e Gianlu, 40 metri sono me, non è fatta, non attacchimi sopra, alla sola e pulsai a fare, mi sono sfiancato, guarda, adesso poi c'era, mi devo prendere una bustina per il mal di schiena, va. È una fatica, è una grande fatica fare quei lavori da solo, capito? E quindi pensavo l'aver fatto bene, invece me ne sono andato troppo vicino alla centralina e allora bisogna rispostare nuovamente l'antenna. Ok, ma non ti dico del condominio, non ti dice niente. È sopra il mio, cosa mi devi dire? Hai compreso? Ehi, quando ci abitavo io in condominio, adesso grazie a Dio, il mio povero padre ci ha lasciato la casa e sono per i fatti miei. Però quando abitavo in condominio ho avuto un sacco di problemi. No, qua non ne ho problemi, io ce la chiave, sa che ce l'ho, non mi pare mi piace. Non c'è problema, è che è molto alto, devi stare attento, è terrazzo, come cammini, come non cammini, terrazzo, oddio, senza barattoie comunque, è tutto, si può camminare tranquillamente, e ancora devo montare quel rotore che hai visto, ancora devo montare quell'altra antenna. Quella, tu immaginati che 6x3, 18 metri quadri di antenna. Addirittura. No, c'ha 6 metri di bracci per 3 larghi. Fate il conto. È molto grande quella che hai visto qua. Una è già montata su, devo montare il rotore, l'altra che hai visto devo montarla lo stesso. Però quella è una cosa che non mi interessa, mi stavo già facendo posto per montare l'altra verticale invece. Ha giocato una gaggata, comunque già lo risolviamo, dai. Tornano tu alle scatole, quando vengo ti suona la porta. Mi stai entrando nel citofono, ti ho sentito nel telefono. Io a casa, nel condominio, non ho mai disturbato un televisore, mai. Però mi sentivo nel citofono, mi sentivo nel telefono, che palle. Sì, ma un poco ti cade il muro del comodo. Ma a me a modo che riuscivo un campanello è stata fatta una cosa così amichevolmente, mi ha detto un amico. Capito? Mi ha detto un amico che ha telefonato, ha detto ma avete fatto spostamenti, qualcosa, sì, ho detto veramente sì, ho spostato. E allora mi trovo vera perché ti sento, ci sono delle righe della TV. E quindi niente, capito? Ma sai che non mi ballano neanche più le luci. Sono perfette adesso. Cazzo, fai 15 zamperi, ero grido. Tu quando hai problemi, chiama a me subito, sono stata di nuda in su. Tu mi chiami e noi risolviamo subito il problema. Ah, va, boh, problemi non ne ho più, sono arrivato. Come giustamente dice mia moglie, fino all'ultima volta. No, anzi, fino alla prossima volta. Ogni volta sono arrivato. Vabbè, non c'è il baracchino a posto, l'alimentazione oggi è l'antenna, non è che ti sei viato, non guardare quello che hai visto qua, io ci ho messo 20 anni prima di fare una cosa del genere, non è che l'ha giovato da oggi a domani, quindi ci ho messo 20 anni, perciò piano piano ti auguro di aumentare sempre però adesso c'è un buon alimentatore, un buon baracchino, una buona antenna. Tra l'altro ti comunico che il segnale è molto più stabile, perché si vede che è bello pieno, prima era un po' barcollante, adesso è bello pieno, perché gli ampere che stai utilizzando sono giusti. Ah ecco, influisce anche sul segnale, così, sulla potenza del baracchino, quindi. Te lo chiedo, se non fai potenza di alimentatore, la radio si bosa e non ti dà quello che ti deve dare. Ah, ho capito, andare è meglio così, dai. Ah, il Marche 5. Cosa ne fai il Marche 5? Ah, il raggio visto. Io non cade nato a me. Bello. Cosa ne fai? Ma sempre su lardo. No, io ho visto un baracchino che mi piace da te e un microfono. E prima o poi ce la faccio, Hai visto il tale più 2 e il tale più 3? Questo supersidere, che questo sto usando adesso. Quella radio lì sto usando mi adesso. Oh, Eugene. Quella che hai visto tu, quella grande, il DAC col tale più 3 supersidere. E quanto va bene. Quello mi piace un bel, troppo. Poi mi piace il microfono quello grigio, il Tanner quello grigio che hai, nuovo, nuovo, nuovo. Allora, un Tanner, le linee valvolari non le hai viste? Quello è il microfono della linea valvolare, quello è un Tanner più 2 e 251, la serie 251, quello è tutto in acciaio inossidabile. E quello mi piace parecchio, ci ho buttato l'occhio lì, quello mi piace parecchio. E le linee non le hai viste, le linee valvolari? Sì, ho visto anche le linee valvolari. Ma a me mi cade sempre l'occhio, sai. E mi è caduto l'occhio su quel microfono e su quel bell'apparato che hai lì. Questa è la parte dove ci sono quei tre microfoni, l'M500, i due Turner, quella è la parte dei baracchini, diciamo, là dove sono i due baracchini grandi. L'altra invece quella è tutta la sezione amatoriale. E vabbè. Già, a me Gianluca ce l'ha un Turner più 2, che l'ho dato io a Giampaolo, e Giampaolo l'ha passato a lui, che è uguale a quello lì, solo che è celeste. A chi non ve lo dai? A Eugenio Gianluca. Io ho dato da te, da qua. Ah, lì si vede da te. Ah, mi sentire? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, ma io sono appunto come te. Va bene, va bene. Ottimo, ottimo. Quello mi piace perché ha lo stile anni 60, no? Stile vecchio, mi piace per quello. Allora, quello lì infatti, vedi? 1, 2, 3, prova, cambio. Ti manca questo qua, tale più 3, supersidere, che non ti credere che sia molto giovane. Questo lo stesso è anni 70, 75. Quelli lì sono un po' più vecchiotti. Ma a me mi è caduto l'occhio lì. Oh, mi è piaciuto troppo, forse il colore il grigio, non so. Poi quell'apparato è bellissimo, è proprio bello. Ecco, beh, questo te l'ho già detto, questo è uno dei baracchini più grandi al mondo. Il DAC, c'è scritto DAC Mark 10, è il figlio del Mark 5 SSB, un radiotelefono. Una bestiolina, questo c'ha 25 watt in AM, cioè 10 watt in AM e 25 in banda laterale, e funziona perfettamente bene. Quello dell'FM non ce l'ha, giusto? No, ma la radio americana non è un FM, l'SSB è buco. Ah, tanto la più fine FM non ti rifai nulla. Non devo baciare in FM, gli annaggio radio baffa vita in FM. E vabbè, ma FM non te ne fa FM. Devo andare a Manishuru. Ehi, ti bara, te, l'FM è bella qui. Certo, quindi te la prendi, ti fai la stazione qua, prendiamo una scrivania e facciamo bella stazioncina. Certo, sì. Ma come si chiude già nessuno? Ti dà dei chili, ti va signore, chi è? No, ma io non disturbo nessuno, assolutamente. Mi guarda, no. C'è Margherita Gianluca che è qua a fianco a me, sta aggeggiando sul computer, io sto parlando di qualcosa. No, disturbo, non disturbo nessuno. No, nel senso magari vuoi stare per disturbare appunto gli altri in casa, capito? No, oh, non c'è quel pericolo. Come stiamo cercando su di noi, quando mi ha fatto la Ianna Becca, qui hai chiesto per la Ianna. Che si va per le televisioni magari. Magari avevo minacciato l'inquilino e oggi sto guardando Rai 1, mi stai disturbando. Sì, ma forse ce l'ho troppo vicino all'antenna, all'antenna del televisore, al primo. Perché tutti gli altri, solo il primo disturba, tutti gli altri non disturba niente, zero. Come questo. E come questo qua, c'è solo quelli della Rai, e boh, uno, due, tre, e basta. Ma queste righine mie, boh, non è che sono proprio andato a finire troppo sopra, capito? E con qua la rottura di scatole, una rottura di scatole per te, che devi rismontare tutto, e per quelli che stanno guardando la televisione, insomma, anche, giustamente. No, quella è la cosa che mi secca di più, anche perché io a differenza vostra non ho qualcosa da perdere in più, capito? E poi vengono i controlli, ti controllano, ti misurano, ti fanno, la rottura di base. E sei sempre soggetto a cose un po' più gravi. Quindi adesso domani, se c'ho tempo, se no se abbia il culo, salgo e la risposta come era, vedo un pochino cosa, che cosa ho combinato, but, non lo so, ma se vediamo. Claro, già tu già ne sai, già ne vai a capo di quella cosa lì. E infatti già ne vengo a capo, sì, non c'è problema. Aspetta un attimo, c'è Buttusoli sta chiamando con 4 watt, sono Pinocchio, non so se mi ascolti, Giallo, tu lo senti? La tua situazione, se a me mi senti forte e chiaro, allora ho migliorato, ma devo rimettere l'antenna davvero. Perché con 4 watt mi ricordo che prima non mi sentivi, Adesso sono con 4 watt e mi senti. E tra l'altro il tuo segnale è anche più alto, Santiago 8, Radio Super 5, più non sono in compagnia di Eugenio, da metà strada tra Sassari e Porto Torres, e Gianluca che è a Porto Torres, vediamo un pochino se riesce a sentire anche a loro. Ciao Eugenio, lo senti a Pinuccetto il Moro da Budusò? Allora, lui lo sento proprio, sento solo la voce, ma non mi solleva nemmeno lo smitter, io non ci arrivo manco pagando. Hai sentito qualcosa, Pino? Aspetta che te ne mando un altro avanti, un po' più grosso. Avanti, Gianluca. Cazzo, proprio grosso. Ehi, ciao, Pino, c'è, non lo so. Aspetta un secondino. Abbiamo appena attaccato. Allora. Guarda, vediamo un po' che... Hola, hola. Intende, c'è? Potenza massima 6-9, Santiago 9, Radio 5 più 1, porca miseria, non ti ho mai sentito così forte. Vabbè, la mia antenna, l'appo proprio morbida di un paio di metri. E mica sono andato in una casa centralina e sto disturbando, più non capito. E quindi devo portarla dove era, però guarda, quella posizione lì è micidiale, Santiago 9 stai arrivando. Sei fortissimo, ma me ne sono accorto perché mi hai chiamato, sono con 4 watt, questa è la radio che mi hai regalato tu, questo è il mostro, capito, quello valvolare mi. Oh, claro. qua a Pototone sono, però tutta la zona verso in discesa, da parte mia. Ciao Pino, c'è, ben sentito, si può dire, dai, visto che non è capitato forse neanche una volta di sentirci. Ti sento Pino, c'è, però non riesco a capire bene bene cosa stai dicendo. Quanto ha detto Claudio che sto arrivando? Non te ne ha dato segnale, tu già arrivi. Ah, che diciamo che arrivo di modulazione, il radio? Gaia, se ne ha segnale Gianluca Pino. Pino. Appagappa. Inteso Asa Gianluca. Sì, sì, ho capito, però non ho capito il rapporto di segnale. Il segnale mi sembra che non ne ho, però il radio non riesce a sentirmi, così. Papa dell'Oggio, radio Super 5. A me? Allora, a me. Arrivo di radio, dai. Sono contento almeno di radio che ci arrivo. E c'hai anche il segnale, ha detto. Così è più. E cioè, ha detto che il segnale sia più alto di me, pure. Però la radio mia è più alta della tua. Ma Rosa. Oh, lo sento anch'io, Io sono con 4 watt, adesso glielo facciamo salire il segnale a Pinuccio, mi aspetta che ho acceso. Io sono con 4 watt, anzi, modulati 3 watt e mezzo. Ecco, ma non mi pare burocrano, perché tu sei in confronto a me, sia garante, sei bilancio, insomma, di tutto, io sono faccio uno salto mortale per arrivare lì. Già l'ho visto il salto mortale che hai fatto, ma te ne varia. Salto mortale, da lui non hai vinto, nuda, la razza di salto che hai fatto. Accettatelo con io lo salto, va. Guarda più nuovo se sale segnale. E se mi dice che lo salto, va. A me lo salto. Magari è di ordine, no? Già lo credo, se lo con 3 watt, da 3 watt è chiaro, non puoi pretendere molto. Dice, stacchiamo di nuovo, va. Hai visto Gianlu, aumentato te? Beh, certo, ci mancherebbe. Hai visto che io più non c'ho cosa detto, allora ricordati. Mi si è varia dello smitter, abbassa. No, ho staccato, non è ora di attaccare niente. Già se vuoi strumenti con 4 watt, immagini, ti dico... con 3 caballacche che si due cose che hai visto dumme. Caro Pinuccio, è triste Venezia, tutta la gatta è. No, vecchito ancora. Te lo inviate che arrivo a manettone io già. Beh, è un piacere, ti invite. E mancato, se c'ho problemi così. A me volte mi tocca capire la Iana. No, dobbiamo fare la brafi. Ma anche lui sta uscendo bene, perché io lo sento, ma quante volte state usando? Ma Pinuccio, non lo so, Pinu cosa c'è? Il giumbo attaccato. Via. Alle 2 esco Pinu, io alle 2 non posso uscire neanche 5 minuti prima, alle 2. Dopo magari le 2 sì, ma prima alle 2 esco Pinu io. Non ci stanno facendo uscire manco 10 minuti prima. Ma prima devi andare da Giovanni. Vabbè, quando già venito voi mi pagate uno squillo. Cappa di Rogero. Avanti Gianlu, dalle mattana. Ehi, stavo vedendo di vedere qua attimo se riuscivo a... ma non c'ho poco tempo, non so se qui non ci rimane qua. A vedere con quel tipo, a vedere cosa succedeva. Prova, poi se ti senta di più. Dile con quanti fatti sta uscendo questo Pinuccio, come si chiama? Pinuccetto il Moro di Budosio. Con quante fatti stai andando Pinu? Battalo, invece. 200 fatti sta andando oggi, 200 fatti. Riccardo. Ma non bacio lo cuscino. Ne ha un altro che arriva a 700, più grande di quello che c'ho io, mi. Ma mica Budugio è lontano mio G, non è due passi, no? Poi dietro le montagne, due. Mille volte ci sono andato a Budugio, già lo so. Ho fatto anche un matrimonio a Budugio. Diciamo che lui abita in una zona molto alta, capito? E quindi arriva bene. Sto arrivando io con 4 watt a segnale 1. Segnale 1 le sto arrivando, mi con 4 watt. Radio Super 5, lui è 9, qua fatti su voi. sicuramente sono troppo sotto la centralina e quindi fa qualche rientro. E allora domani la sposto di nuovo. Avevo trovato la posizione giusta, invece devo toglierla di nuovo. La sposto più avanti. Va a fanculo, va. Avanti Gianlu. Non sta riuscendo Gianlu con quel capo. Secondo, sì. Adesso ci sono. Attento fino a certo un'ora. Attento fino a certo un'ora, sto ascoltando sempre qua. Radio portatore. Intendi Giappino? Quanto sta facendo uno schifo? Qua oggi è stata criticata. Volete mettere così? Forse è meglio, sta facendo uno schifo, adesso sta meglio, fa meglio. Ma se sono fatto 4 anni veloci per impiegare il microfono. Ah, hai detto vado a ambulare, ragazzi, ma che ha il microfono? Chi è questo paperino? No, sto trovando questo microfono qua, è uscito, ma deve essere una salvice, fatto bene qua. Chi è che ha detto paperino? Ho detto chi è questo paperino, buonasera. Oh, il muccolo. Ciao, Fra. Mi fermo. Io se devo aumentare più due, io che è troppo presto, mi devo aumentare. E beh, ti, sto a posto. Sì, diciamo di sì, da parte mia. Poi da parte di quell'altra persona non so se ha risolto. Ciao, California. Ciao, da California, che tino muscolo, California, sì, tu. Cane, muscolo. Per carità. Non ho giù inteso. Perché sono nuovo della frequenza io. Sono nuovo, non lo so, questo. Aspetta, secondino che è abbasso. Torniamo io. No. Buonasera, chi è entrato? E poi mi chiamo Gianfranco la scimmia. Buonasera, chi è entrato? Sarete di Michele, sì. È entrato Gianfranco la scimmia. Di Michele? Di Michele la scimmia. In mare camici. Tuo cugino io ando a casa a Capocci. No, io dai, lo finiva anche, buonasera comunque. Io tiro muscolo comunque da Sassari, cosa non l'hai mai sentito? Io relativo non ricordo però qua. Comunque, ciao Tino, Luca da questa da Portatore, se la papà tango. Buonasera dai Luca. Neanche io sinceramente non ti ho mai ascoltato, anche perché io sono da poco, quindi non mi ricordo la modulazione, dai. Quello che c'era poco, Ciao Tino. Buona. Eugenio, noi già ci siamo sentiti già un paio di volte. Ciao G, ciao. No vabbè, sono giusto entrato così a fare due battute, perché ho sentito la voce di Paperino e niente. Hai ragione, io già mi stavo ascoltando in cuffie, però era giusto per provare una radio al volo a vedere se con questo bipolo mi sentiva lì Pinocchetto. Cappa. Ma chi è da Budusò? Sono riuscito a toglierlo fuori basso e ma proprio leggero. Pinocchetto al molo, e Pinu lo senti a Tino? Mica ti sente VT. Addirittura Budusò, buonasera Pinu. Oh Pinu. Intendeci a Tino. Cadeci che aiuto. Vabbè dai, riprendete, però che domani mattina mi devo stare presto. Grazie, fai girare tu. Salutone a tutti quanti comunque. E io ti credo che io mi trattengo molto, sono già le 10:15, anch'io domani mattina sveglio alle 6. E trubalettando. Adesso manco barba mi ho fatto, quasi quasi non la faccio adesso, solo domani mattina mi tocca alzare un'ora prima. Ciao ti, saluti a casa. Si è risolto. Babbo mi fa fare un colpo di telefono. Ciao, un abbraccio grande, ci sentiamo. No, alla prossima. Salutone, ben sentito. Ehi, dai, salutone, tutto pieno di mischi, La bucla, dai, ti faccio sapere. Che non è che mi sto addormentando, è che devo combattere con i grinchellini. E quindi mi tirano un po' di tempo. Oh, ma e poi lei l'aveva partorito? Ha fatto già un anno. Allora, facciamo il carbonato. siccome tu non so se ce l'hai come amica su Facebook, ogni tanto mette qualche fotografia. No, già mi va a stare chiaramente in visione, no, che era 27, ce l'ho Facebook, vivo. Vabbè, dai, noi ci teniamo a contatto così. Vabbè, riprenditela, dai. Ciao, ti non ce l'ho. Ce l'avevo, pure l'avevo tolto, no. Tanto non uso computer. Ciao, ci sentiamo, buonanotte. Avanti Gianluca. Aspetta Gianluca, ciao Pinù, dai fammi sapere domani quando sia Sassari che ci prendiamo un caffè. Ciao, un abbraccio anche a te, buonanotte, alle prossime, vai Gianluca. Ehi, ciao Tino, buonanotte, buon tutto per domani. Ma stai chiudendo qua? Ehi, mi sto addormentando, sono stanco molto. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, buonanotte, grazie del chiacchiere, ciao G. Allora, tutto a posto, e sono contento così, dai. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Ciao, buonanotte. Ehi, ciao Cla, buonanotte, tutto a posto qua, tutto a posto, bello illuminato. Allora adesso in alto un albero di Natale, ciao. Ciao Cla, buonanotte, buon tutto per domani. Ci sentiamo domani, dai. Oia. Adesso c'è un piccolo accordettolino lì, magari, in quelle giornate di cavolo, magari che c'è vento o che piove, no? Giusto per tenere sempre sotto le stazionarie. Io ce l'ho qua, ce l'ho il rosmetro nel baracchino, c'è già il rosmetro. Io me le guardo sempre e non ne ho stazionarie, è zero. Sì, ho capito. Sì, d'accordo, per controllare sì, ma l'accordatore c'è per accordare, capito? Oltre che il controllo stazionario che c'è lo strumento del rosso. Sì, ma non mi posso usare l'accordatore, no, già l'avevo uscito, triturato, perfetto. Più in là mi migliorerò l'antenna, però voglio mettere un bel palo che superi la casa, perché me lo metto da giù, da superi la casa, sull'infi minimo lo metto a 15 metri, ma un bel più in là farò nuova, mi metto un'antenna e quelle si mettono a fianco al tubo, come ce l'hai tu. Una bella mappa, oggi, e io come quella che ho io, sì. Una bella mantova. Anche, sì, anche. Ma più là e adesso già va bene così. Io? Pianino, oggi. Pianino si va nelle cose. E va pure questo di fazione. E piano piano, lasci così va, piano piano. Ma guarda, assorbe anche di meno. Adesso lo sto usando da un po' e guarda, è perfetto. Ci metto la mano sopra, perfetto. Non scalda un cactus. Perfetto. Oh, Uggi. Sì, dimmi. Sempre Tino. Ascolta, giusto per titolo di curiosità, quanto sta arrivando lì a Papatango? Il dottore squadra, a me si è a 9. E lui e te? Allora adesso spero sia passato con un altro baracchino, però non fare tanto affidamento perché non è tanto, diciamo così, preciso. Sei intorno a 8 e mezzo, 9 anche da me, però non tenere fede. Se capita che ci sentiamo, ti controllo con un paio di radio e guardiamo un po' la differenza, perché avendo due antenne su, anche se sono vicine, però mi sono accorto che anche trasmissione mi ruba 10 dB una dall'altra. Per dire, magari con una arrivo 9,10, con l'altra arrivo 9,5, con 9,9. Vabbè, dai. No, vabbè, io sto guardando lo smitter mio, qua 7 radio 5, sto facendo giusto un paragone. E quanti watt state usando? Io qua 4 watt, sì, mi segna 4 watt. Dai, da questa parte saranno 6 o 7, Scusa qua, già non mi ricordo più quanto stavo scendendo, però... quasi simili, dai. Diciamo che Luca ha un po' di picchi positivi da 5 a 7, quindi è molto buono come... Va bene. E io sì, guarda un po'. Una curiosità, aspetta, guarda un po' il segnale. E tu invece fai da 6 a 7 e mezzo. Radio sempre 5, ultima. Vanno entrambe bene. E adesso ha cambiato qualcosa, guarda un po' se ha cambiato qualcosa. Ti ho aumentato i fatti al baracchino, vedi se ha cambiato qualcosa. Adesso hai meno picchi positivi, però sì, da 7 a 8. Buono, positivo. E i picchi adesso quanto sono? Tutti. Aspetta, avete parlato in due. E forse sentite a Luca un po' di più, Aspetta, Roger, che mi controlla la cosa segnale, vediamo un poco. Vediamo i picchi positivi, come vanno? Adesso vai da 8 a 9, 9 e 5, picchi positivi buoni. Vediamo. Già aumenta. A voglia. Vabbè, io... Diciamo che sono con 20-25 modulati. Una radio super 5, chiara, una popoletta, una radio bella, bella presente. Cioè, va bene, dai, già si tiene bene dopo tanti anni. Vabbè signori, vi risaluto, che c'è il bimbo che vuole giocare un pochino prima di andare a nanna. Tanto piacere, sì, ci sentiamo, dai. Buonanotte, buon tutto per domani, avanti genio. Ehi, ciao T, buonanotte dai, un bacione al bambino, ciao, buon proseguo. Vediamo cosa c'è in questo canale pubblico. Gesù di Nazza, che c'è? Dove? Allora, aspetta, non saperlo prima, guarda, l'avrei visto, guarda. Ah, TV 2000. Chiama proprio TV 2000. Io ma non ti muore a baldare Gesù di Nazareth. Abbia a baldare lo demonio Lettaro Coco. Ma è un film visto e stravisto. Ma lo sai che a me piace non mettere, prendi i film così. Io poi 10 comandamenti, Benuri, lì si viaggio tutti io. Viaggio tutti arrebati, i suoi film così. E arriva di rive. E gli artisti di raggio. Arrivati nel comunismo. Però se la prendete in una fine di subimmati. Ma chi si di un programma fa di via, è davvero così povero. 52 del digitale terrestre. E la prendete meno che vi lasciamo. Sì, hai ragione, 52. Ma visto Marco di catena, io si mangiare a mezza, beh. MT26 del digitale terrestre sempre c'è cielo, anche lì metto roba bella. Ehi, di Max anche Focus è molto interessante. Ma io mi piace, sai cosa mi piace questo di Max? E più di tutti, quando fanno vedere quel programma come è fatto, mi si fa vedere come ti fa vedere cose. Ehi, come ha fatto? Cavolo, disse fare, sono grandi signori, quello che costruiscono delle cose gigantesche in America. Mega costruzioni. Sì, la mega costruzione, sì. Ma è normale quando parlo lo smetter salga su. Cioè, quelli sono i picchi positivi, giusto? Sì, è meglio, più è normale, anzi è positivo. Vabbè, l'uso come decarico il calimentatore, bello, bello, sono contento. Non scalda niente, anda troppo pure. Tu mi fai scaldare, cioè, mi fai scaldare, mica nella radio. Io sono dei dire di solo, allontano di gatto e mezzo. Lo è così, allontanare, ma non è neanche tanto fastidioso. Io sinceramente la verità non sento niente. No, ma me lo sento io. Capito? Ma la ventola? Ma non è la ventola, sto qua. Cosa senti? L'alimentazione, cosa mi sono? Ah, come acceso, diciamo, il rumore di come attaccato. Esatto. Ma lontana, lo vuoi dire, lontanando. Tu arriva a 5, non arriva a 0. Va bene, no? Scusate, non ci stiamo sapendo, c'è. Rispetti un attimino. Il voltmetro. Si abbasso il voltaggio. La lancetta non ci spegne al vero, ma ci dai. No, lo stai sottoalimentando, metti la 13.8. No, già lo so quello, già me l'ha fatto vedere Claudio. Ma è normale che si blocchi da 10, dai. Sì, perché è regolabile da 10 in su, allora. No, allora già va bene, così, perfetto. Ma è anche bello, è bello massiccio, anda bene. Mi faccio sentire un po' qui, oggi, la divasia dei Zurich. Domani cosa vedo? Domani vedo la Bonaria. Ma sa di me? Non lo so. Non lo so, perché oggi era lo scandalo, no? Cioè al Monte d'Oro, già mi hai visto. Non mi sono interessato, stavo a fare l'ufficio merci per vedere un po', però avevano. Alle 11 stamattina ne avevano già 45 di sbarco, alle 11 stamattina. Per domani? Per domani, sì. Minimo sono 70. Se non qualcosina di più pure. Meglio. Più le vale che più vale niente. Vabbè, noi la vogliamo mettere a giù. Vabbè, tu fai lineari. Esatto, a metri lineari. Poi per quanto riguarda più tanto, poi ci saranno tutti quanti i guidati. Neanche, i guidati. Poi c'è l'imbarco, insomma già non stiamo volendo di fare. No, domani ci sarà quel picco perché molti vengono per le femmine oggi. Per Pasqua. Ricorda che anche ma che avete parlato in vista noleggio? Ma quelle sono per gli aeroporti, per quelle cose lì, capite? Noleggio, cosa devo dire io? Siccome te non si può viaggiare in vacanze, io viaggio con me. Ma io ti venire in aereo, se magari si è prenotato 6-7 mesi prima, il modo di lavoro l'ha pagato la sciabitura, vende lungo la valigia, si piena la macchina noleggio, tanto se ne fa la macchina noleggio e ne ripagnando sempre. Sì. Non bacia i brisi, oh yes. Oh yeah. Tanto costa un gasolio. Il gasolio adesso lo stiamo mettendo a 1,50. Sì, io ce l'ho vista. Dove? Mi assassini adesso. Come va, vedi chi? Eia, aspetta. Guarda che, quanto abbiamo visto il gasolio oggi, ah? No, che c'era un centesimo di differenza da... 1,58. Ma era di pomeriggio, la giocata era arrivata a Sassari. Da Gigi lì, adesso. Ma c'è un'altra paesata della verità, eh? Ma tu il gasolio devi fare quando l'ICE è chiusa, che costa un bel, ma un sacco di meno. Ah, sì, diventa automatico, quello sì lo so. È andato per le parti così, eh? Fino a che costa di meno. Ma l'ICE è sempre la meno cara. Non lo so perché, ma l'ICE, in confronto agli altri, è sempre la meno cara. Io faccio così per il camper. Come mai quello più povero prodotto? Esatto, ad esempio ancora zero vado più. Poi guarda, perché lo guarda, è un po' sempre la nappa vecchia lo guarda. Ma c'è la macchina 9 anni. L'hanno fatta perché ho creato la pappa dello gasolio. E perché io al 206 mio, non ho aggiunto avanti sui cosi. Vabbè, ma intanto l'hanno aperto qua sopra a casa adesso, ce l'ho un passo come si chiama il microfono, sì, il distributore. E chi l'ha preso quello lì? No, non c'è nessuno, è sempre aperto, non c'è nessuno, senza gestore, infatti il gasolio è 1,59, fisso. Sì, ma che gestore è? Che marca è? Da qui. E da qui devo visitare il re. Vai. Allora. La terra è buona. Ma lì sono la roba da terra. Va bene, Gianlu, dai. Io passo un attimo in cucina, cioè in soggiorno. sentiremo domani. Ciao, ci vediamo domani al posto. Domani stiamo volando. Ciao. No, stiamo volando domani. Dici, a Point. La verità non lo so, però mi sei anche più giuro, infine. Vabbè, mi viene la madonnina. Stiamo trovando la grazia. Sì, via, da domani. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, a domani. Ciao, ciao. Tanto mai io vado giù il drastro di sicuramente. Buffa, oh, Filippo. Non mi sono neanche guardato il turno. Magari scendo e sono libero. Ma che se scende sei libero? Una cosa che avevamo utilizzato e ci si libera poter fare a chiudo. E mi sono dimenticato di vedermi la chiamata. Ma qua si sa così. E tu come ti fa per te di chiamare a riposo? Vabbè, dopo gli altri mi ti ricordo. No, che funziona così, certo di cavolo. Lo senti di te, non è che tu magari gli anni senti chi, all'ultimo mi dirò così. No. E vabbè, dato io mi alzo sempre presto anche quando non sto lavorando. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao, a domani, ciao ciao. Ciao ciao, buono. Non ci facciamo collegare a culo di conosco, magari ve l'avviso. Ah, gli affari, va, non avrei di disturbare nessuno, dai. Sentiamo, ciao.